Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Ciao a tutti, con Franco Pianetani, autore di questo programma, e Gianmarco Ferronati in regia, vi faccio una proposta radiofonica e non ditemi di no. Aspettiamo insieme Inter-Juventus, che tanto è alle 18, manca un'oretta da ingannare, dunque viviamo insieme questa attesa che ci porterà alla prima partitissima dell'anno. Era ora che tornasse il calcio, perché non è calcio di campionato, perché non ne potevamo più, anche se alla fine ci siamo divertiti con le nazionali, anche con la nazionale di calcio, settimana che ci ha portato in Brasile, una settimana in cui le sveglie, come sapete, non hanno funzionato un granché, almeno quelle azzurre, le nostre benissimo, fin troppo bene, ma quelle azzurre no, soprattutto quella posata sul comodino di Mario Balotelli, che poi ha segnato come le stelle vogliono, il gol che ci ha portato in Brasile. Arriverà qualcuno che si prenderà il mio posto, allora io starò solo a guardare. Mi metterò seduto con lo sguardo fisso su di te, perché ho imparato ad aspettare. Sono due giorni che camminiamo 3 metri sopra il cielo, e proprio adesso che ci penso mi ricordo quante volte non ti ho persa per un pelo. Ma solo con te, ma tu non ho bisogno neanche di pensare e svegliarsi la mattina. Io ho sempre chiamato lo sport anche per lavorare insieme, camminare insieme in questo percorso, in questo cambiamento culturale contro ogni forma di razzismo e per una forma di integrazione. E la squadra di calcio, lo sport, è uno dei terreni più utili anche per camminare insieme. Poi dicono, scrivono oggi, svegliati Mario, ad esempio su Repubblica l'Italia si affida a Balotelli, ma lui fa autogol con il ministro. Balotelli, già, qua ci arriviamo sempre, 800240024, sapete come la penso? Che come ha fatto, tutto sommato ha fatto bene, ma allora era facoltativo, era uno spottone per la ministra che ha detto, bene, c'è la nazionale, approfittiamo di questa pubblicità gratis o quasi, e Balotelli non si è presentato, poi solita polemica conseguente, goffi tentativi di riparazione via pubblici, via sms, poi immediatamente resi pubblici dagli uffici stampa. Vabbè, di questo spottone avremmo anche fatto a meno, però visto che è mio amico, gli consiglio pubblicamente qualche sveglia. Cosa ne dite di questa? Questa va bene. Televendita delle sveglie per Mario Balotelli. Sentiamone un'altra. No, questa. No, basta. Questa mi fa venire il mal di testa. Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, come stai? Tutto bene? Non c'è male, ho fatto fatica a svegliarmi, peggio di Balotelli, eh. Tu ti ricordi? Quest'ultima sveglia dovrebbe essere buona, insomma. Ne abbiamo. Senti questa. Tu ti ricordi, no, prima ho fatto un quizzone agli ascoltatori, tu ti ricordi un fumetto che si intitolava Il Centravanti? Sì, me lo ricordo, non, anche se non ero un grande lettore di quel fumetto, ma non me lo ricordo. Per forza non ce lo vendevano, eravamo minorenni. Esatto, bravo. Anni 80 eravamo, prima metà degli anni 80, facciamo che eravamo minorenni, sbrighiamocela così. No, Centravanti era un fumetto hard di quegli anni, nonché un cult di quegli anni, ma abbiamo i centravanti che non si svegliano, i centravanti che devono emigrare perché li prendono a mazzate a minacce, i centravanti, non è proprio un centravanti Ozil, ma oggi Florentino Perez ha detto l'abbiamo venduto perché è un donnaiolo spietato, e quindi duro il mestiere del centravanti. Ma tu come la pensi? Centravanti di sfondamento, vabbè, brutto. Sì. Ma tu come la pensi su questa storia della sveglia, mica la sveglia, la ministra e lo spottone della che nazionale? È stato un gravissimo autogol da parte di tutti, non solo di Mario, ma anche di chi doveva cercare di fare in tutti i modi che questo incontro avvenisse, per tanti motivi. Quindi, insomma, si poteva anche andare a bussare alla porta, diciamo così, sì, per svegliarlo per tempo. Certo, ma ha fatto un autogol, perché è vero che l'aveva già incontrato a Bologna, ma dopo tutto quello che aveva detto lui stesso riguardo al razzismo, dopo come si era anche esposto in un certo senso in maniera abbastanza decisa, se viene il ministro nella tuo albergo e in ritiro, quindi non è che arrivi da chissà quale parte del mondo, non puoi non essere presente. Però proprio per questa battaglia contro il razzismo di cui Balotelli è paladino, sì, io penso anche che sia stato un gigantesco spottone a fin di bene, naturalmente, che insomma, una presenza di Balotelli avrebbe evitato un po' di inutile casino, questo mio parere. Ma invece della storia di Osvaldo, che cosa mi dici? Oggi ne hai scritto sulla Gazzetta dello Sport, anche questa non è male, a proposito di centravanti sulla graticola. Questo è un qualche cosa che già si sapeva, cioè i motivi per Osvaldo era tutto costato ad andarsene già si conoscevano, e l'ambiente si era fatto caldo, caldissimo, tremendo in un certo senso per questo giocatore. La Roma stessa ha invogliato il ragazzo ad andarsene anche per una questione economica, però lui in effetti, quando tutto ciò che ha detto è vero, si era creato un clima parecchio problematico per lui a Roma, era diventato veramente, diciamo, impossibile rimanere lì. Impossibile rimanere lì. Cosa ha detto Osvaldo? Queste parole. Ti senti un esiliato? No. No. No, è stata una decisione mia, perché anche la Roma, da quanto mi ha fatto capire, voleva che io andassi via. No, ma io credo che il tifoso normale mi ha sempre dimostrato tanto affetto, il tifoso della Roma. Poi c'è una parte della tifoseria che in Italia purtroppo ci sono dappertutto, che vivono in maniera sbagliata il calcio, ma questo è difficile cambiarlo. Io sinceramente non potevo stare a Roma con gente che mi veniva sotto casa a scrivermi le cattiverie, quindi no, sicuramente non è normale, ma penso che facciamo poco per evitare queste situazioni, insomma, arrivando al punto che sembra normale alla fine, no? Più ragione di così si muore per Osvaldo, secondo me, Mirko. Cioè lui guarda, ha fatto una fotografia perfetta, eh? Sì, sì, ti porto anche una testimonianza diretta. È l'ultima trasferta che abbiamo fatto a Roma, sia con la Nazionale sia con la Juventus, mi capitava, anche prendendo i taxi, andando al bar, proprio di sentire, di respirare un astio particolare nei confronti di questo ragazzo. Quindi non mi è difficile credere che l'ambiente fosse fatto davvero duro per lui. Secondo me è molto più importante questo tipo di messaggio, cioè mi fa molto più riflettere questo tipo di messaggio, anche certo, perché riguarda una cosa che io non sopporto più, ma non da oggi, da molto tempo, cioè il peso delle tifoserie, della tifoseria organizzata anche sulle decisioni societarie, perché questo per me rimane incomprensibile e succede solo qui. Il famoso lanciato da Cappello tanto tempo fa, ti ricordi? Certo. Io lo presero a pernacchi e invece purtroppo è così. Sì, sì, ma è così, non solo a Roma, questi sappiamo bene come questi abbiano un peso, certo. E come in un caso quella che dovrebbe essere la maggioranza, cioè quella che Osvaldo giustamente definisce i tifosi normali, diventa un'incredibile minoranza, perché così stanno le cose. Altro argomento che mi sta più a cuore del mancato appuntamento mancato di Balotelli con la ministra è questa, così, la storia di Prandelli, perché anche questa la trovo abbastanza incomprensibile. Scusa, non ti ho sentito, perché ho perso l'ultima frase. No, dicevo che un'altra cosa che trovo parecchio incomprensibile a proposito di impegni azzurri è questa decisione di Prandelli di esternare la sua voglia di addio. Sì, guarda, c'è da dire che è un qualche cosa che lui ha sempre detto alle righe, anche qualche mese fa, ha voglia di tornare ad allenare un club, probabilmente è anche un modo per lanciare un messaggio ai grandi club, no? Per mettersi sul mercato per tempo, insomma, preparare anche i club a una sua candidatura. E sì, cioè, forse in tempestiva, diciamo che non è stato lui direttamente a esternarlo, sono stati i giornali a tirarlo fuori, però la sostanza è questa, insomma, lui ha voglia di club e francamente io credo che a livello di nazionale poi non sia così traumatico sapere che il CT non sarà più il tuo CT nel prossimo biennio, nel senso che a livello di nazionale passano i tecnici, ma passano anche i giocatori, si va per generazioni, quindi diciamo che forse dopo 4 anni è quasi normale. Tutti convocati, magazine. Ragazzi, inutile dire che la notizia più eclatante della settimana è quella arrivata sulla scorta della, insomma, in coda un po' alle discussioni sull'assegnazione delle Olimpiadi del 2024, che vorremmo in Italia, magari a Roma o dove, non si sa. È stato eletto il nuovo presidente del CIO, ma soprattutto c'è una nuova disciplina che entrerà a titolo sperimentale nel programma di Tokyo 2020. Il problema sarà quello di trovare gli atleti cui assegnare la medaglia, perché se sono bravi non li troviamo più. Sentiamo. Da dove viene la forza per arrivare alla fine della corsa? Allora, a proposito di Olimpiadi e di sport serio, puro e pulito, oggi tra l'altro verrà eletto il nuovo presidente del CIO. Si sa già grosso modo nome e cognome, si tratta di un tedesco, si chiama Thomas Bach, ha 60 anni da compiere, avvocato, uomo d'affari, ex fiorettista, oro ai giochi di Montreal 76, eccetera eccetera eccetera. Sarà il nuovo uomo d'affari alla direzione di quella macchina da quattrini che è il CIO. Però attenzione, perché poi non ditemi che non parliamo mai di altri sport, non me lo dite perché mi arrabbio, oppure ditemelo, fate quello che volete, 800240024, perché la notizia di oggi è che un docente giapponese di scienza dello sport ha colto l'occasione dell'assegnazione dei giochi del 2020 a Tokyo per lanciare una proposta al comitato organizzatore, una nuova disciplina che dovrebbe essere ammessa a titolo sperimentale alle Olimpiadi in Giappone. Si tratta del nascondino. Siamo nel centro sud del Canton Ticino. 101, non imbrogliare, 101. Commissione, mi vedi? No. 2, 3. Il signor Rezzonico, convalescente da una fastidiosa forma di gastroduodenite pilorica, decide di giocare a nascondino con Gervasoni, il suo stilista preferito. 5, 57, 14. Dopo qualche secondo di incertezza, un impeto di scaltrezza si impossessa di Rezzonico, il quale decide di nascondersi in un sacco della spazzatura proprio dietro le spalle dell'ignaro stilista. 100, 101. Arrivo, Beh, mi sembra che il livello sia quello, no? Il nascondino alle Olimpiadi. Allora io candido Aldo Giovanni e Giacomo alla commissione del CIO. Ma io, allora, visto che vale tutto, a me piace un sacco la briscola, allora io voglio la briscola alle Olimpiadi. Compare, che ci stiamo a fanzonno? Io mettono carico. E carico pure io per la madassi. 10, 11, 21 e 24, 45. E piglia con la cavalla, no? Perché non sei preso con la cavalla? E no, ma mo devi spiegare perché non sei preso con la cavalla. Ma porca madina, perché la cavalla non ce l'ho? Ma come, se mi sei fatto il segno? Io? Se si tratta della recchia vuol dire che ce l'avevi, no? Ma io mi sono grattato la recchia perché ci tengono un po' di cielo. Ma allora con te non ci si può giocare più. Non ci si capisce più niente quando ti gratta per fargli segno, quando ti gratta per gli pedicelli. Volevo giocare o stiamo a scherzare? Vabbè, giochiamo, tanto siamo persi, te. Beh, io dico che sarebbero discipline perfette per un eventuale debutto olimpico a Roma. Cosa ne dite? Se a sera le Olimpiadi a Roma, nascondino, briscola, se ne avete degli altri ditelo, 800240024. A proposito di Olimpiadi, di Roma, magari non di nascondino o di briscola, questa mattina a 9 in punto è intervenuto Mario Pescante con Simone Spezia. Cosa ha detto Pescante? Sì, il progetto viene portato avanti così come lo ha portato avanti Madrid è arrivata fino in fondo. La fuga prematura del presidente Monti, il quale ci disse molto ovviamente la Spagna farà la stessa scelta tra 15 giorni, non solo non è avvenuta, ma loro sono stati fino in fondo in gara, hanno perso, ma per altri motivi. Ecco, dico che molto probabilmente un'Olimpiadi può essere un progetto concreto. decisamente meglio il tennis del nascondino. Lunedì c'è stata la finale degli US Open e Rafa Nadal si è ripreso la corona, si è ripreso lo scettro di questo torneo del Grande Slam. Ne abbiamo parlato con Stefano Melocaro di Sky, sentiamo. Stefano Melocaro da Sky. Eccomi, parla piano, parla piano, se no li disturbi, che quelli sono ancora lì. Ma quando finisce? No, e questi proprio sono costruiti per perdurare così. 54 colpi, è durato un'eternità questo scambio, non so se il più lungo della storia del tennis, nella finale tra Nadal e Djokovic, che il mallorchino si è portato a casa in 4 set. Allora scusa Carlo, io intanto ti dico, insomma, lungi da me l'idea di volerti correggere su qualcosa, ma non puoi chiamare Nadal mallorchino, perché Nadal è mallorcone. cioè quando si tratta di parlare di Rafa Nadal, il diminutivo non lo devi usare. È vero, neanche... non si può usare neanche in questo caso. No, è sbagliato a priori, perché non veramente siamo in presenza della più incredibile macchina esecutiva mai creata dall'uomo su un campo da tennis. Cioè Roger Federer è il miglior giocatore della storia, ma Rafa Nadal è la migliore macchina esecutiva, sì, del tennis della storia. Mi piace molto questa di macchina esecutiva, D'altra parte, sì, non è una definizione perfetta, perché lui, se sta bene fisicamente, non è che batte gli avversari, li disintegra. No, ma poi sai, la cosa che abbiamo sempre sottovalutato è stata sempre il fatto che di Nadal si è pensato che fosse un terraiolo tutto sommato con una mano abbastanza di legno, no? Con una mano abbastanza metallica, e invece ieri ha fatto vedere una volta di più che poi se gli fai la palla corta ti fa la controsmorzata e te la fa con un giochino di polso degno del miglior Federer. Se lo attacchi ti passa, cioè non sottovaluterei, oltre alla parte fisica che mi sembra evidente preponderante, ma di Nadal bisogna anche dare credito proprio del fatto che ha imparato con gli anni anche a giocare un bellissimo tennis, forse meno, sì, bello di quello di Federer, ripeto, tanto per non fare confronti, ma comunque efficace. Poi Federer ha tramontato, anche questi US Open l'hanno detto chiaramente, mentre Federer, bravo, molto bravo, perché molto bravo, sto cercando delle parole che non esistono, è uscito anche lui dall'inferno, anche lui sembrava un giocatore tramontato, proprio per guai fisici, per lunghe assenze dal campo. Mi hanno detto vabbè, l'età avanza, tutti invecchiano, lui è un giocatore che gioca di potenza, quindi anche sta tramontando. Guarda, invece è incredibile, perché noi da quando Nadal uscì dal circuito lo scorso anno dopo la sconfitta di Wimbledon, è stato fuori 7 mesi, sì, appunto, tutti noi che in qualche modo chiacchieriamo e ci occupiamo di tennis abbiamo recitato il seguente rosario: Rafa Nadal continuerà a vincere soltanto sull'amata terra battuta, perché ormai il fisico non glielo consente. Tutti, non c'è stato uno che non abbia detto questa cosa. Nadal è tornato e ha vinto una serie infinita di partite sul cemento, ha vinto due Masters 1000 consecutivi prima di vincere lo US Open e ha vinto Indian Wells. Inoltre ci ha messo di mezzo anche un Roland Garros, un altro, l'ottavo. Si è distratto un momento a Wimbledon, ma cazzarola, dopo tutto è umano pure lui. Sì. Cioè, non c'è veramente, non ci sono parole. Ma da questo punto di vista, in questo percorso, insomma, può giustamente ballare al grande ballo finale con Serena Williams, che insomma è fin troppo facile, fin troppo intuitivo fare un parallelo tra i due, anche da questo punto di vista. E i numeri poi lì ci fanno dei confronti interessanti, perché Serena Williams ha vinto il suo 17° slam come Federer, ma Nadal è arrivato a quota 13, e io francamente qualche tempo fa, se tu mi avessi chiesto ma riuscirà Nadal ad acchiappare Federer a quota 17, io ti avrei detto secondo me no, perché ormai con il ginocchio conciato così vincerà solo sull'amata terra battuta, tanto per rifare il rosario. E invece a questo punto, siccome gliene mancano 4, e 4 tenendo presente quanto sta bene fisicamente Nadal e soprattutto quanto riesca a giocare sempre meravigliosamente i punti che contano, e francamente non è così incredibile pensare che possa arrivare anche a quel livello lì. Serena, al contrario di Nadal, ha meno avversari, no? Cioè in quel momento Serena non ha la concorrenza, è meno forte. questo non c'è dubbio, anche se la Azarenka è arrivata a questa finale, gran giocatrice, grandi margini di miglioramento, certo, quindi, certo. Quindi aspettiamo anche lì qualche duello più probante per Serena Williams, che se sta bene come Nadal non concede scampo a nessuno. Assolutamente, però questa è stata proprio l'estate in cui abbiamo visto le cose che non avremmo mai immaginato, cioè abbiamo visto Murray vincere Wimbledon, sì. Tutti quanti dicevamo ma quello non vince mai. E invece ha vinto lì. Abbiamo visto Fognini vincere 3 tornei di seguito, quasi 2.5, 13 partite, pure quella è una cosa che racconteremo ai nipotini. Abbiamo visto Nadal che ricomincia a vincere, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere sul cemento, la Pennetta che torna in semifinale allo US Open quando sembrava defunta pure lei. Questa è un'estate memorabile per il tennis. Sì, è vero, verissimo. E io ti ringrazio Stefano, a molto presto. Grazie a te. Tutti convocati Magazine. La notiziona vera della settimana, nell'aria ma non ufficiale fino a pochi giorni fa, fino a un paio di giorni fa, quella del ritorno di Kimi Raikkonen, del biondino finlandese, al volante della Ferrari. Giorgio Terruzzi ne ha parlato con noi. Tutta lassù, naso all'insù. Attenzione, perché lo sorpassa Hamilton è sesto, Massa è campione del mondo, Massa vince il Gran Premio del Brasile e adesso aspetta, incredibile, Felipe Massa con Hamilton che è quinto, ha passato Juan, Hamilton è campione del mondo, è incredibile. Ultime curve che lo portano verso il titolo iridato, un titolo iridato a piloti che sembrava non più alla portata del finlandese della Ferrari e che invece in questo straordinario Gran Premio del Brasile la Ferrari ha ampiamente meritato. Kimi Raikkonen, ultime curve sulla sopraelevata prima del traguardo, Kimi Raikkonen, bandiera a scacchi, vince Kimi Raikkonen il Gran Premio del Brasile davanti a Massa con Alonso che è dietro, la Ferrari ha vinto, attendiamo il passaggio degli altri, Raikkonen e Massa, doppietta Ferrari, straordinaria sesta vittoria per il finlandese in questo campionato ed è la quinta ed è la quarta doppietta, la 76esima con, vedete, ufficiale. Allora, da una quarantina di minuti torna Kimi Raikkonen, addio a Felipe Massa, vitello grasso per il ritorno del biondino, l'ultimo campione del mondo sul cavallino, come abbiamo ora fatto sentire, titolo perso da Massa qualche anno fa, e l'ultima vittoria mondiale, quella di Kimi Raikkonen. Allora è il caso di parlare con una delle voci più autorevoli del panorama italiano dei motori, Giorgio Terruzzi, ciao. Buongiorno. Cosa ne pensi del ritorno del biondino, Giorgio? Beh, la squadra si rafforza, ci sono un po' di cose da sistemare secondo me, credo, dentro la squadra, ah. Ci saranno un po' di cose da sistemare, credo che questo ingaggio sia anche il frutto, come dire, non dico di, insomma, di una piega del rapporto con Alonso diversa da quanto si pensasse, credo anche da quanto pensavano dentro la Ferrari, da quanto pensava Alonso, insomma un po', però è un pilota molto veloce, è un pilota che ha fatto molta fatica a fare il pilota Ferrari, sì. Quando lo fece. Ha fatto molta fatica a fare il pilota in generale. Sì, ma insomma, capire come funziona quel ragazzo lì è strano, perché è un Forrest Gump, è un ragazzo che ha una, come dire, un universo suo, è un ragazzo molto veloce. Entrambi i piloti Ferrari, in questo caso, sia Alonso sia Raikkonen, hanno lo stesso punto debole, secondo me, che è la qualifica. Un unico punto debole riguardo Alonso, per quanto riguarda Raikkonen, la costanza di rendimento, però è molto veloce, dipende da che cosa, dai patti chiari che vanno presi, che Alonso secondo me vorrà prendere. Sì. Nel momento in cui fare coppia con uno così. Più che lottare come leoni non si può fare. E oggi, questo weekend, abbiamo fatto. Questo era Alonso a Monza. Giorgio Teruzzi, come sai bene. Allora, i due galli nel pollaio, i problemi veri della Ferrari, l'umore di Alonso. Parti da dove vuoi. Dammi queste tre risposte però, perché io non capisco. Il problema è sempre quello lì, no? Devi avere una macchina che ti possa permettere di vincere. Io penso che Alonso si consideri nettamente, non abbia paura di Raikkonen, lo consideri un pilota che lui può battere dietro tranquillamente. Sicuramente però quello che era previsto, cioè qui è un problema di impazienza secondo me, cioè Alonso è troppo impaziente, Max ci ha messo 5 anni per vincere Ferrari e in 5 anni, nonostante ci fossero stati dei momenti di altissima tensione, non so se ricordate, certo, l'incidente, insomma, non si è mai sognato di porsi in antagonismo, di mettere due linee diverse tra se stesso e la squadra, come dire io sono bravo, loro no. Questa cosa qui qualche disagio l'ha creato. Io non sono, secondo me hanno anche pensato che Alonso potesse decidere altrimenti per il proprio futuro, e secondo me questo pensiero ha determinato la scelta, la direzione Raikkonen, che è una direzione in questo momento propizia, perché Raikkonen costa meno e poteva aspettare, cioè Raikkonen senza la Ferrari che fa? Sì. La Lotus non ha i soldi, Mercedes è a posto, la Red Bull è a posto. Sì. La McLaren, ci sarebbe questa ipotesi che secondo me interessa anche un po' Alonso, cioè McLaren con Honda 2015, sì. Sì. No? Sì. Però insomma si è già fermato Raikkonen, entrambi non hanno pochi anni, sono due persone che hanno. E quindi questo è poi il problema. Il problema è che vince uno solo da 4 anni. Chi gestisce questa cosa con in un modo o in un altro. Cioè io dico sempre, se Button cosa dovrebbe fare? Se no, certo, certo. Hamilton, sto parlando di gente che ha vinto i mondiali, che vuole vincere, che è lì per vincere, no? Il problema è che vince quello là. Vince quello là e vince sempre quello là, e tutti si chiedono ma com'è possibile che sia così. Semplicemente ha una macchina inarrivabile, sappiamo come i cicli, cioè me lo insegni, i cicli delle macchine durino 3-4 stagioni, quelli delle macchine vincenti, questo è particolarmente lungo. La domanda è, ma com'è possibile che Ferrari, McLaren, Mercedes stiano lì a guardare il mostruoso tedeschino che vince sulla Red Bull e non siano capaci di sviluppare una macchina come quella? Ma succede così, cioè è un problema di... è un discorso molto complesso e molto difficile, perché è pura tecnica. Sì, no? Certo. Io quando dovessi spiegarlo alle mie figlie, gli dico sempre che a un certo punto, quando tu togli, metti, c'è il muro. Il muro è muro, no? Quel muro lì non puoi più fargli niente, perché è muro. Allora, il nocciolo di quella macchina lì è un nocciolo che permette, che funziona, che permette delle duttilità aerodinamiche e permette di, se poi a fare l'aerodinamica c'è uno come noi che è un fenomeno, come certo, dire, no? Allora le opzioni di sviluppo che hai su una macchina buona sono superiori agli altri e sfruttate al meglio. Aggiungo anche, secondo me, con un uso di quattrini che nessuno si sta permettendo in questi anni, no? Sì, chiaro. Però è già successo, no? Schumacher ha vinto 6 anni, 7 anni con una macchina che aveva 2 o 3 idee che poi gli altri hanno faticato a recuperare. Hanno attuato, certo, hanno faticato a recuperare pur con budget importanti. Un'ultima sì. Cosa, Giorgio, volendo fare un po' quello che va a frugare nelle pieghe di questi discorsi di rapporti e di campioni, non è che Alonso a questo punto con l'arrivo di Raikkonen potrebbe lavarsi la coscienza, nel senso, se adesso non vinciamo il mondiale nemmeno con Raikkonen che è tornato e siete contenti tutti, quando lo vinceremo mai? cioè potrebbe così usare Raikkonen un po' come paravento l'anno prossimo? Non so, mi sembra come dire una soluzione di ripiego, non so, cioè Alonso è uno che come dire vuole vincere lui, non ne può più di perdere, no? Secondo me ha anche ragione. Ha anche ragione. Il problema è che fai fatica a considerare sfigato uno così, no? Dai. Cioè, bene, è capitato in un momento, non l'ha imbroccata come Vettel, è uno che non è il più forte di tutti, anche se ha imparato a vincere, secondo me ormai, no? È molto certo, ha furia di vincere. Però quello che è successo è che quel ragazzino lì ha provato a un certo punto della sua carriera sta macchina e va a vincere il quarto mondiale di fila. Capita che nella vita cucchi questi non sì. prendi lo snodo giusto, no? Sì, però, sì, sì. però sei considerato il più forte di tutti, però hai vinto due mondiali, però sei il pilota della Ferrari, però guadagni un sacco di soldi, però sei come dire, ti sei impegnato a fare il leader di un gruppo, capito? Allora fai il leader di un gruppo, no? Io mi permetto di dire una cosa oggi, io spero che Alonso e Raikkonen imparino un po' da Massa in questo senso, perché Massa si è cuccato Schumacher, Raikkonen e Alonso come compagni di squadra, più un mondiale perso per un pelo, più un incidente da una donna, non ricordo un giorno in cui ha tirato fuori il muso e l'ha messa giù dura, no? Non stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, ma stiamo parlando di uno che in tante occasioni qualche come dire nodo, qualche ruggine avrebbe potuto buttarla lì, no? Cioè uno che domenica davanti a Alonso si comporta così, la chiusura del rapporto già in essere, perché sì. domenica non è che non lo sapesse, ma no? Certo, beh bravo, sì. complimenti. Sì, è uscito certamente con eleganza, su questo hai ragione da vendere. Grazie Giorgio. A voi, buon lavoro ragazzi. Tutti convocati Magazine. Ormai manca pochissimo, un quarto d'ora a Inter-Juventus, il tempo per riascoltare, per guardare nel portafoglio, nella cassaforte, nelle tasche, per frugare nelle tasche, facciamo così, delle società di Serie A. Ovviamente non potevamo farlo senza Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Salva Danaio. Salva Danaio. Beh, Salva Danaio sarebbe una bella sigla per descrivere la situazione del calcio italiano in questo momento. Perfetto, ne ho un'altra, questa. Focus Economia. Focus Economia sarebbe... Se vuoi faccio Barisoni, ma non so se mi viene bene. Ma sarebbe perfetta se parlassimo esclusivamente di Premier, lì di economia reale che cresce ce n'è tantissima e quindi sarebbe ideale per la Premier. Non so se, e poi mi spieghi perché, insomma, poi è tutto collegato. Ovviamente la Premier ha vinto l'Oscar del mercato dal punto di vista degli esborsi, ma questo è giustificato da dei contratti televisivi che sono molto diversi e molto più ricchi rispetto ai nostri, perché la grossa battaglia sarà quella che è alle porte, già vediamo i vessilli, sarà quella del contratto sui diritti TV, battaglia che comincia domani in Lega. 800240024. Senti Marco Bellinazzo, io ormai ho un nuovo parametro economico per valutare ogni cosa. Si tratta dello stipendio di questo signore che ti faccio sentire, indovina chi è? Sì, no, sono andato a scusarmi in campo prima di tutto perché ero visto che era a terra dolorante tanto, e poi in spogliatoio, più che a scusarmi perché già ero scusato, sono andato ad accertarmi un po' per capire se stava meglio, perché non ero contento del fatto che lui possa avere un problema. Ho detto che sono anti-juventino e ci credono anche, loro signori che scrivono gli sms. Ma dai ragazzi, ma sto scherzando? Ma non l'avete neanche capito? 800240024, una sveglia. Senti, un argentino, chi è questo? Un argentino. Sì, è argentino. di mezza età, non solo calcistica. Beh, potrebbe essere Esteban Cambiasso, visto che stiamo, indovinato, che siamo a Milano. Da quando ho letto che Cambiasso prende 4 milioni e mezzo l'anno, mi hanno ricordato sui giornali, ad esempio la Gazzetta dell'altro giorno, che elenca la top 10 degli stipendi italiani. Allora, su questo parametro tutto, dal prezzo della spesa allo stipendio di Ibrahimovic, che ne prende 12, secondo me ci sta. Alonso 30 all'anno dalla Ferrari, e anche qui ci siamo. Valentino Rossi 22, Vettel 18. I 4 di Kakà, Buffone, Balotelli mi sembrano una miseria. I 3 del tuo Amsic, davvero l'elemosina di De Laurentiis. Beh, chiaramente ci sono stipendi che in qualche modo si giustificano anche in funzione del tipo di sport e del tipo di rendimento. Quello di Cambiasso, che comunque ha dato tantissimo alla causa nerazzurra, è però l'emblema di quella che è stata la gestione fin troppo di manica larga di Moratti, in particolare dopo il triplete, che ha concesso grandi aumenti contrattuali, e questo poi ti porta a capire perché l'Inter abbia chiuso mediamente negli ultimi anni il bilancio con Rossi da 70, 80, 100 milioni, e perché poi insomma si sia profilata anche questa cessione indonesiana, che mi auguro avvenga quanto prima, insomma, più che altro per... Poi parliamo di questo, perché in settimana ho accolto con grande entusiasmo la notizia secondo cui alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci sarà come sport sperimentale il nascondino. Tu sei già iscritto, ma ne parliamo dopo. Invece a geografia del mercato, allora c'è una Premier League che ha sotterrato tutti dal punto di vista degli esborsi, mentre i nostri stipendi, almeno a leggere queste inchieste su vari giornali, sono diventati ben più parchi nell'elargire soldi ai primatori. Beh, la Premier ha speso intorno ai 750 milioni. Io ho provato a incrociare varie fonti perché è difficile stabilire con esattezza quelli che sono i giochi e i prezzi del mercato. In ogni caso, la Premier addirittura ha avuto un rosso tra incassi e quanto ha speso di 500 milioni, è il record storico di spesa della Premier, ma è giustificato da quello che è il nuovo contratto delle TV che è entrato in vigore proprio quest'anno per la Premier, che garantirà incrementi medi del 70%. Ora, le percentuali dicono poco, i numeri invece e le cifre precise ci dicono molto di più di quello che è la potenza economica delle squadre della Premier. È come se ogni squadra della Premier avesse avuto e avrà nei prossimi anni un incasso supplementare di 30 milioni di euro, quindi come se tutte partecipassero almeno al girone della Champions League. Supplementare, hai detto? In più, insomma. Dimmi quanto prende, per farla semplice, quanto prende una neopromossa in Premier League? Beh, siamo ben oltre i 50 milioni nell'ultima stagione, quelli a consuntivo, e quindi andranno almeno a 70-80 milioni. Quindi quanto per dire il Napoli, anzi più del Napoli, quindi di una big del campionato italiano, e si avvicinano ai 90 milioni, 80-90 milioni che prendono per esempio Inter e Milan, e ai quasi 100, insomma, che prende la Juventus. Questo parliamo appunto di squadre medio-basse della Premier. La Premier quest'anno andrà verso i 4 miliardi di fatturato contro i 1,5-1,6 a cui siamo ancorati noi da diversi anni, e questo ti spiega la forza economica. Ora, c'è un'operazione farlocca da questo punto di vista, nel senso che sembra che inganna chi non conosce questi dati, ed è quella di Bale, cioè del Real Madrid, che acquista Gareth Bale, ma è l'eccezione appunto che conferma la regola di acquisti massicci fatti dalla Premier anche in Spagna, e in questa geografia economica del calcio europeo che è cambiata, per esempio la Spagna è diventata un paese che esporta giocatori. Certo. Se pensiamo a Negredo, a Soldado, che sono andati appunto in Premier. Real Madrid ha incassato solo 60 milioni dal Napoli, tanto per dirne uno, più 50 milioni per Ozil. Proprio perché in Spagna invece le cose vanno male, al di là delle due big, e il governo spagnolo ha imposto una cura dimagrante. Le squadre spagnole dovranno risparmiare circa 300 milioni all'anno nel prossimo triennio per abbattere quello che sono i loro debiti, per esempio anche nei confronti del fisco spagnolo, che ammontano a 4 miliardi. Quindi in tre anni dovranno scendere da 4 a 3 miliardi. Sì. Quindi la Spagna è diventata un paese esportatore. Questi sono i due estremi. In mezzo a questi due estremi si collocano poi gli altri tre campionati più importanti d'Europa. La Francia, che è diventata spendacciona, ma è diventata spendacciona sull'asse Parigi-Monte Carlo. Certamente lì è un fattore contingente, come il discorso di Bale, cioè non va estrapolato dal contesto, non, ovviamente non segna la tendenza generale. Non sappiamo quanto possa valere anche sul mercato dei diritti televisivi Inter-Juventus. Nel frattempo ce l'andiamo a vedere tutti insieme. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dalle 17 alle 19 vi terrà compagnia come ogni domenica Giovanni Capuano, che sarà con voi anche lunedì. Ci sentiamo martedì. Ciao a tutti.